Ed eccoci carissimi ancora insieme per la 65esima puntata della biografia del curato d'Ars, considerato sacerdote modello e quindi scelto da Radio Maria per occupare questo spazio riservato alla prassi, alla pratica, riservato cioè a esempi pratici di vita sacerdotale veramente riuscita. Stiamo sempre parlando in questo periodo dei fatti straordinari di cui è cosparsa la sua vita e ogni volta ci premuriamo di dire che non in questo consiste la santità, vero? Questi sono carismi gratuiti che Dio certo concede anche per onorare questi suoi eletti, sì, ma soprattutto perché in qualche modo attraverso di loro rifulga la sua gloria divina. Però abbiamo detto e ripetuto, carissimi, che la santità è ben altra cosa, vero? E le persone che fanno coincidere la fede cristiana con tutte queste cose fuori dal comune, e solo in queste cose, tipo miracoli, fatti mistici, chiaroveggenza, preveggenza, eccetera, queste persone dimostrano di aver capito ben poco della fede cristiana e di aver quindi bisogno di molta preghiera per spostare di nuovo lo sguardo dell'anima su ciò che veramente conta e su ciò che veramente vale. Comunque il capitolo di oggi si intitola così: la lettura del pensiero, cioè la dote che il nostro santo aveva di leggere il pensiero. E qui dobbiamo dire subito, carissimi, che siamo in un campo profondo e misterioso, vero, che riesce davvero impenetrabile se non all'occhio di Dio. Già abbiamo considerato l'azione che il nostro santo svolgeva al confessionale e già abbiamo visto più volte che col suo sguardo ispirato sapeva discernere in mezzo ai pellegrini le persone, per esempio, che avevano bisogno di partire presto, per cui le chiamava prima, o anche i peccatori sordi ai richiami della grazia e sul punto di sfuggire al perdono di Dio. Però, malgrado questo, carissimi, non abbiamo ancora visto come egli giungesse anche a leggere nel pensiero e a penetrare nelle coscienze. E dobbiamo dire che questa notizia che il curato d'Ars leggeva nei cuori fu accolta con un certo scetticismo, specie fra le persone colte, come testimonia la famosa baronessa di Belvei, che è la tipica rappresentante degli ambienti aristocratici. Dice in una sua lettera: «Nei primi anni, nonostante quello che avevo sentito dire, non osavo parlargli di una cosa che mi era causa di una pena vivissima. Temevo che non mi avrebbe saputo comprendere e che la sua eventuale decisione avrebbe provocato nella mia anima un turbamento penoso che nessun altro sacerdote avrebbe potuto calmare, perché in nessuno avevo tanta confidenza quanto in lui. Riflettendo che non si trattava di una colpa, mi avvicinai al confessionale decisa a non dire nulla. Ma con mia sorpresa il santo rispose al mio pensiero meglio di quello che avrebbe potuto fare una persona a cui avessi esposto dettagliatamente quanto mi angustiava». Poi dice: «La prima volta che mi confessai da lui ebbi la proibizione di fare una confessione generale, ma in seguito constatai spesso che egli era al corrente di tutto ciò che riguardava la mia anima, comprese le grazie che avevo ricevuto in tutta la mia vita». Attenti ora cosa dice la baronessa di Belvei. Dice: «Dapprima si era opposto ad aiutarmi nell'accusa, ma poi cominciò a interrogarmi su vari punti da me ignorati o dimenticati. E anche quando non mi ricordavo immediatamente, non osavo negare, ben sicura che egli non si ingannava». E conclude dicendo: «Altre persone mi dissero che egli aveva letto nelle loro coscienze». Beh, passiamo ora subito, carissimi, a un secondo episodio, un secondo esempio di lettura del pensiero, il secondo dei 12 in programma in questa trasmissione. Un giorno il nostro santo disse a una giovane penitente: «Fatevi religiosa, figlia mia», e chiuse subito lo sportello del confessionale. Bene, questa decisione fu causa di amare lacrime per la nostra penitente, che amava molto il mondo e le cose del mondo. Per cui, su consiglio di un'amica, venne a trovare di nuovo il servo di Dio. «Padre, le vostre parole mi hanno messo in uno stato di desolazione e di disperazione. Posso fidarmi di voi? Voi del resto non mi conoscete». Risposta: «Io non vi conosco, figlia mia, al contrario. Leggo nella vostra anima come se vi avessi confessato per tutta la vita. Dovete farvi religiosa». E così dicendo chiuse di nuovo lo sportello del confessionale. Beh, come sia andata a finire la faccenda il biografo non ce lo dice, ma si limita a scrivere in nota: circolare della visitazione di Montlieu, informazione su suor Maria Elena Balfin. Evidentemente questa ragazza aveva preso sul serio il consiglio del santo. Terzo esempio. Un giorno nel 1847 un architetto di 45 anni si disponeva a confessarsi da Don Vianney per l'ennesima volta, quando a un tratto risentì dentro di sé il rammarico di non essersi fatto prete a suo tempo, ma di essersi sposato, rammarico che tuttavia non aveva comunicato mai a nessuno. Attenti cosa capita. Finita appena l'accusa delle sue colpe, sentì queste parole: «Figlio mio, conosco i motivi umani che spingevano uno dei vostri parenti a parlarvi del sacerdozio. Se quando vi ho visto la prima volta avesse giudicato che per voi era meglio essere prete, ve l'avrei detto». Difatti dovete sapere che uno dei parenti più prossimi dell'architetto aveva desiderato la sua entrata in seminario per pura vanità. Attenti, in altra occasione il curato diceva al medesimo penitente queste parole: «Vi ringrazio, figlio mio, che tanto spesso avete compassione di me». Difatti dovete sapere che il più architetto, ricordando ogni giorno nelle sue preghiere Don Vianney, diceva: «Signore, usate misericordia a lui e a tutti i miei parenti e benefattori», e aggiungeva il nome di coloro per i quali pregava. Per cui Don Vianney continuò dicendo: «Avete ragione di ricordare così a Dio i vostri parenti e benefattori. Sì, ma ne ricordate alcuni che hanno meno bisogno di preghiere di altri che dimenticate». E concluse: «Felice l'amico di un padre che ha un figlio così pio». Difatti questo penitente esemplare pregava ogni giorno per un certo signore che era amico di suo padre. Beh, adesso attenti, quarto esempio. Un professore del seminario di Lione era venuto ad Ars, ma non per ammirare l'uomo acclamato dalle moltitudini, ma invece purtroppo per coglierlo in fallo. Non si sa per quale motivo aveva una fiducia molto limitata nelle doti e nelle decisioni di Don Vianney. Bene, si collocò nella piazza al passaggio del santo che andava dalla chiesa alla canonica e gli disse: «Signor curato, io sono il rettore del seminario maggiore di Lione e vi sarei riconoscente se volesti darmi alcuni consigli sul modo di adempiere bene la mia missione». Bene, Don Vianney, dopo un sorriso un po' misterioso, fissò i suoi occhi scrutatori in quelli del sacerdote che gli stava davanti e, parlando in latino per non essere capito dalla folla che lo circondava, disse semplicemente così: «Declina a malo et fac bonum», ecco, allontanati dal male e fai il bene. Detto questo lo salutò con rispetto e si occupò di altri. Come dire, appunto, che aveva letto nel suo pensiero e l'aveva sbrigato con queste due parole fondamentali. Come ci sia rimasto, lui solo la sa. Beh, passiamo subito al quinto esempio di questo genere di lettura del pensiero. Un altro sacerdote, parroco in montagna, interruppe un suo viaggio per fermarsi ad Ars. E dobbiamo dire che anche lui non aveva granché fiducia di tutto quello che si diceva di Don Vianney. E quando questi doveva passare dalla chiesa alla canonica, pensò bene di allontanarsi dalla folla per non incontrarlo. Si può immaginare la sua emozione quando l'uomo di Dio, cambiando strada, venne a lui e, posatagli una mano sulla spalla, gli mormorò all'orecchio: «Abbiate fiducia, amico mio». Passiamo subito a un sesto esempio. Un ciabattino di Leone, già fervente cristiano, non aveva perduto la fede, no, la fede che in gioventù era stata molto viva, no. Ma comunque si era dato allo spiritismo. Ebbene, turbato da insistenti e spaventevoli allucinazioni, nel giugno del 59 decise di fare una visita a Don Vianney. E arrivato ad Ars, riuscì a farsi largo nella navata della chiesa fino a vedere l'altare di Santa Filomena. In quel momento il curato stava proprio davanti a questo altare recitando il suo ufficio, ma intanto non vedeva il ciabattino essendo di spalle. Bene, il tempo passava e il nostro spiritista, che aveva poca pazienza e disponeva anche di poco tempo, pensava tra sé: se questo prete avesse lo spirito di Dio, come si dice, saprebbe che ho bisogno di parlargli e che non posso attendere. Non aveva ancora finito questo pensiero quando il curato si voltò e disse: «Pazienza, amico mio, vengo subito». Il suo stupore naturalmente fu grande. E dovete sapere che dopo due colloqui con Don Vianney vide scomparire i suoi terrori. Ritornò alla fede della giovinezza e poco dopo, non essendo sposato, vestì l'abito dei trappisti col nome di fratel Gioacchino. Beh, un settimo esempio può essere questo, attenti. Camillo Monnin, notaio a Villefranche, aveva un amico vittima del rispetto umano e lontano da ogni pratica religiosa. Bene, questo povero disgraziato si trovava un giorno in mezzo alla folla che circondava Don Vianney quando il santo, facendosi strada fra la ressa dei pellegrini, andò a lui e affettuosamente gli disse: «Amico mio, è questa testa che bisognerebbe guarire». E ciò dimostra che era ben al corrente della sua situazione, vero? Ottavo esempio. Ascoltiamo la testimonianza del canonico Camelet, che era un missionario predicatore. Così racconta: «In una missione da me fatta, fui colpito dalle buone disposizioni religiose di un impiegato della ferrovia, che mi fece poi il racconto della sua conversione in questi termini. Dice: mi ha convertito il curato d'Ars. Quando arrivai qui, sentii tante volte parlare di questo santo e volli sapere le cose precise, però non per confessarmi, ma per istruirmi. Ebbene, quando lo vidi, fui così impressionato dall'aspetto di quest'uomo che mi venne subito l'idea di avvicinarlo. Entrato in sacrestia, mi feci inginocchiare al suo confessionale. E mi chiese subito: amico mio, è tanto tempo che non vi siete più confessato? Risposta: sì, padre, è molto tempo, ma esattamente non ricordo più. Esaminatevi bene, è da 28 anni. Da 28 anni, sì, precisamente. E il curato aggiunse anche un altro particolare: ma non vi siete ancora comunicato, avete ricevuto solamente la soluzione. Ebbene, anche questo particolare era vero. E conclude il buon uomo: a tali parole sentii risvegliarsi così fortemente la mia fede che credo proprio di aver fatto una confessione molto seria e ho promesso a Dio di non abbandonare più la mia religione. Beh, penso, carissimi, che non ci siano davvero parole davanti a una rivelazione del genere, vero? Intuire che non ti sei confessato da molto tempo è già una cosa sorprendente, sì, ma indovinare esattamente il numero degli anni direi che è una cosa davvero incredibile, incredibile ma vera. Passiamo ora all'esempio numero 9. Un giorno la baronessa di Belvei, già citata, col pretesto di una commissione, mandò da Don Vianney un peccatore ostinato che non metteva piede in chiesa tranne che a Natale e a Pasqua. Forse non si era più confessato da dopo la prima comunione. Ebbene, ad Ars il servo di Dio gli chiese: da quanto tempo non vi siete confessato? Risposta: da 40 anni. Vorrete dire da 44, corresse il santo. Allora quell'uomo prese una matita e dopo aver fatto una sottrazione sull'intonaco del muro concluse: sì, avete ragione, 44 anni. Inutile dire che questo peccatore si convertì e morì poi da buon cristiano. E ora, carissimi, passiamo subito al decimo dei 12 episodi in programma. Nel 1851 venne ad Ars una giovane di nome Stefanina con l'intenzione di fare la confessione generale di tutta la sua vita e anche un ritiro spirituale. E cominciò la sua confessione dicendo: «Padre, mi sono esaminata diligentemente». Il santo le lasciò finire l'accusa, poi le chiese: «Non ricordate più nulla?» «No, padre mio, non ricordo più nulla». Risposta: «Ebbene, se volete uscire da questo confessionale con l'anima pura come dopo il battesimo, andate a pregare Nostra Signora Addolorata che vi faccia conoscere quello che vi resta da confessare e poi ritornate qui». Per cui, con tutta semplicità, la giovane si recò alla cappella dell'Ecce Homo, dove si trovava appunto la statua dell'Addolorata, e si ricordò di tre colpe molto lontane nel tempo alle quali non aveva più pensato. E qui attenti cosa succede. Ritornata al confessionale, il santo insistette: «Avete confessato tutto?» «Io credo, padre». «Ma figlia mia, e quest'ultima colpa che avete dimenticato e che non avete mai detto in confessione?» E rivelato alla penitente un altro peccato con tutte le sue circostanze di tempo e di luogo, aggiunse ancora: «È vero che non vi siete più ricordata, sì, ma quando passerete nel luogo che vi ho detto, ve ne ricorderete». A questo punto il santo le diede l'assoluzione, poi l'assicurò che la sua vocazione era la verginità nel mondo e la congedò pienamente soddisfatta. Quando poi nel ritorno passò nel luogo dove un giorno aveva offeso Dio, si risvegliarono i suoi ricordi. La sua gioia non fu però turbata, perché si sapeva perdonata. Ecco, mi pare curioso, vero, questo episodio, dove il confessore vuole quasi a tutti i costi risvegliare la memoria della penitente circa una mancanza del passato seppellita completamente sotto la polvere dell'oblio. E ci hanno sempre detto che c'è obbligo di confessare solo i peccati gravi di cui si ha attuale coscienza, vero? Mentre i peccati dimenticati non sono, e del resto non possono essere, parte integrante della materia del sacramento. E quando poi dovessero riaffiorare la memoria, basta confessarli con comodo la prima volta che ti accosti al sacramento. Ecco, invece in questo caso si è fatta un po' un'eccezione, vero? Cioè si è provocata la confessione di un peccato che la penitente neppure ricordava, anche quando le venne spiattellato davanti con precisione. E questo in vista di una presa di coscienza futura, di una presa di coscienza nell'immediato futuro. Ripeto, è davvero curiosa questa prassi usata qui dal grande confessore francese. Evidentemente lo fece per rendere la confessione più completa e più efficace, provocando nella penitente non solo il dolore di un peccato che non ricordava, ma anche l'umiltà di riconoscerlo, questo peccato, pur senza ricordarlo. Beh, vediamo allora gli ultimi due episodi, sempre inerenti alla sua capacità di leggere nel pensiero. E questo primo episodio ci viene riferito da Don Toccanier. Dice: «Un uomo di Lione, sulla cui sincerità non ho alcun dubbio, mi raccontò che all'età di 15 anni si era confessato dal santo, il quale, appena finita l'accusa, gli disse: "Amico mio, non hai confessato tutto. Aiutatemi dunque, padre, non ricordo altro. E le candele che hai rubato nella sacrestia della tua parrocchia per ornare i tuoi altarini?" Ebbene, anche questo era vero. Vedete che anche questi piccoli furti, vero, da bambini, hanno un peso davanti a Dio, eh? E anche queste piccole cose ci intralciano nel nostro cammino verso di Lui. Per fortuna che abbiamo la confessione, altrimenti come faremmo a sgombrare il campo da tutti questi piccoli o grandi debiti? E come se la caveranno quelli che non vanno mai a confessarsi? Ultimo episodio. Un uomo venne ad Ars per consultare Don Vianney intorno alla malattia della moglie, come si farebbe con un medico. Non si mancò di dirgli che non sarebbe riuscito ad avvicinare il santo se non al suo confessionale. Ed egli, per cui egli si rassegnò, sia pure senza grande entusiasmo, e andò al confessionale, ma senza intenzione di confessarsi. Dovete sapere che questo pellegrino, che sembrava un po' diverso dagli altri, portava delle cicatrici che lo rendevano leggermente deforme e a causa di alcune ferite che aveva ricevuto per strada un giorno in cui era stato coinvolto in un assassinio, per cui arrestato aveva anche dovuto subire il carcere preventivo. Ebbene, al confessionale, con suo immenso stupore, il santo gli ricordò i colpi, il luogo preciso, il carcere preventivo e tutto il resto. Il penitente mancato comprese allora che non aveva a che fare con un medico delle cure empiriche, come aveva pensato, e profondamente impressionato da quelle rivelazioni, chiese di confessarsi e narrò in seguito, senza rossore, la sua strana avventura. Ecco, vedete che in questo caso le rivelazioni circa il suo passato vengono fatte appunto per stimolare la fede di quell'uomo e per indurlo a una buona confessione risalatrice. Per cui dobbiamo concludere che questo dono che il nostro santo aveva di leggere nel pensiero era sempre finalizzato alla conversione dei peccatori. Ora, carissimi, vogliamo ascoltare le tre letture della prossima domenica di Quaresima, terza di Quaresima, che nel rito romano si incentra nel Vangelo della Samaritana. Prima lettura dal libro dell'Esodo, capitolo 17, versetti da 3 a 7. Famoso episodio dove il popolo mormora contro Dio, contro Mosè, per la sete. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai fatto uscire dall'Egitto? Per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?» Allora Mosè invocò l'aiuto del Signore dicendo: «Che farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percorso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè così fece sotto gli occhi degli anziani di Israele. Si chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti, e perché misero alla prova il Signore dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi, sì o no?» Parola di Dio. E ora, carissimi, passiamo alla seconda lettura, che è tratta dalla lettera ai Romani, capitolo 5, dall'inizio fino al verso 8, ricordando che il ritornello del Salmo, che è il famoso Salmo 94, è il seguente: «Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce». Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani: «Fratelli, giustificati per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo stabilito. Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene. Ma Dio dimostra il suo amore per noi, verso di noi, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». Parola di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva perché non abbia più sete. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. E ora passiamo appunto, carissimi, al Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, e noi leggeremo solo dei passi scelti, perché questo capitolo 4 è molto molto lungo.

non scappa via e non si nasconde da Gesù per la vergogna di sentirsi scoperta nel suo peccato, ma al contrario, con molta serenità, continua la conversazione, facendola cadere addirittura sul culto, sulla religione. Eh sì, perché vedete, carissimi, Gesù non si era presentato a lei come uno che detta legge, vero? Uno che ti guarda dall'alto al basso, no, ma si era presentato addirittura come una specie di mendicante, chiedendo da bere, dammi da bere. E questo evidentemente aveva subito colpito, positivamente colpito, l'animo femminile della Samaritana, la sensibilità femminile della Samaritana. E aveva creato i presupposti per un dialogo confidenziale, quindi per un dialogo sereno, costruttivo. Ed è molto bello vedere anche gli apostoli che a un certo punto tornano dalla città, no, dove avevano fatto provvista per il pranzo, e si meravigliano di vederlo discorrere con una donna. Giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che stesse a discorrere con una donna. Nessuno tuttavia gli disse che desideri o perché parli con lei. Dunque si è instaurato fra Gesù e la Samaritana un rapporto confidenziale, dove lei non si è sentita a disagio, né per il fatto dei cinque mariti, perciò della sua condotta morale piuttosto libertina, né per il fatto di avere una religione diversa da quella di Gesù. E così Gesù ha potuto, come dice il prefazio ambrosiano, ha potuto aprirle la mente alla fede, fino a farla diventare addirittura un'apostola, come avete sentito. Difatti, al termine della conversazione, la Samaritana sente proprio il bisogno di correre in città e di annunciare questa buona novella. Ecco, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia forse il Messia? E i samaritani che rispondono al suo appello non vengono delusi, no, tutt'altro. Anzi, dicono, adesso che abbiamo constatato di persona, adesso non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo visto, abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Ecco, dunque Gesù ha usato con la Samaritana la strategia giusta, la tattica giusta per convertirla, creando appunto un rapporto confidenziale. E come avete sentito, il fulcro del discorso si impernia sull'acqua, quell'acqua che il Signore chiede in dono alla Samaritana, ma che poi, come avete notato, promette a sua volta alla Samaritana. Ecco, quest'acqua che io ti chiedo estingue la sede solo per un momento, solo per pochissimo. Ma io ti prometto un'acqua che estingue la sete per sempre. La Samaritana evidentemente non ha capito e dice, sì, dammi di quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua, non continui a fare questa fatica. Ma Gesù evidentemente parlava di ben altro, vero? Ossia parlava di un dono spirituale che estingue la sete dello spirito e che quindi sazia ciò che di più nobile possiede l'uomo, cioè che è l'anima, l'anima spirituale e immortale. L'anima che è perciò l'elemento di cui siamo fatti, che ci rende simili a Dio. E badate, perché Gesù può estinguere la sete dello Spirito? Può estinguere la sete dello Spirito perché ci dona il suo Spirito. E mi pare molto bello che noi in piena Quaresima ricordiamo questa presenza fondamentale per il cristiano, che è appunto la presenza dello Spirito Santo. Ricordateci anche della seconda lettura, se avete notato, quando dice che l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ecco l'acqua viva, carissimi, l'acqua viva è Lui, lo Spirito Santo. E noi non potremo mai ringraziare abbastanza Gesù Cristo di avercelo dato, di avercelo meritato con la sua passione, morte e risurrezione. Lo Spirito Santo che ci rende figli di Dio e che un giorno ci permetterà di sedere, come speriamo, al banchetto celeste. Dunque noi intendiamo adorare Dio in spirito e verità, come Lui desidera, e così prepararci al grande incontro. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.